English Bit di Giulia Crivelli. Bold. Burberry's bold move to make shows direct to consumer. Il quotidiano americano della moda e del lusso Women's Wear Daily ha intitolato così una notizia che potrebbe essere una piccola grande rivoluzione. Si parla infatti della mossa coraggiosa di Burberry. Lo storico brand inglese ha annunciato che farà solo due sfilate, fashion shows o più semplicemente per gli addetti ai lavori, shows, all'anno, unendo le collezioni uomo a quelle da donna. Non solo, gli show saranno direct to consumer, perché quello che si vedrà in passerella si potrà acquistare subito, mentre attualmente bisogna aspettare mesi. Le sfilate uomo che ci sono appena state a Milano, ad esempio, sono state quelle delle collezioni che arriveranno nei negozi per l'autunno-inverno 2016-2017. Non basta ancora. Burberry è bold, coraggioso, secondo Women's Wear Daily, anche perché le collezioni saranno seasonless, senza stagione. Con piccoli accorgimenti, in altre parole, tutto si potrà indossare sia in un clima caldo sia in uno freddo. Vedremo se altri brand seguiranno Burberry on this path, su questo sentiero, cioè su questa strada, diremo in italiano. Ma torniamo alla parola bold. Oltre che coraggioso, come aggettivo può significare audace. It was a bold move on their part to open a business in France. È stata una mossa coraggiosa da parte loro aprire una filiale in Francia. The wine made him bold enough to approach her. Il vino gli diede il coraggio necessario per tentare un approccio con lei. Un altro significato interessante di bold è quello riferito a forme, colori, linee. The bold outline of a mountain against the sky, la chiara sagoma di una montagna contro il cielo, che si staglia contro il cielo. She paints with bold strikes of the brush, dipinge con chiare pennellate, strikes of the brush. Un'ultima curiosità, bold è anche il modo inglese di dire grassetto, per lo stile delle parole. Infatti sulle tastiere dei PC il shortcut per fare una parola in grassetto è Ctrl più B, B di bold. Come sostantivo boldness indica quindi coraggio, audacia, anche chiarezza, e come avverbio esiste boldly, coraggiosamente. Tra i phrasal verbs c'è to be so bold as to, if I may be so bold as to suggest that he made a mistake. Se posso azzardarmi, permettermi, direi che ha fatto un errore.